Oggi abbiamo convocato una conferenza stampa a livello nazionale, che è una, diciamo, un'azione coordinata di lancio dello sciopero dell'8 marzo. E in tantissime città ci sono presidi piuttosto che conferenze stampa, azioni. Noi abbiamo deciso di fare appunto un breve incontro con i media qua in piazza, un po' per risignificare comunque lo spazio pubblico, perché visto che in questo momento sappiamo tutte che le condizioni sono quelle che sono, cerchiamo di sfruttare tutti i momenti in cui possiamo comunque esserci coi corpi in maniera performativa e politica. La situazione ovviamente è molto urgente, l'analisi di non una di meno in tutto questo tempo della pandemia ha sottolineato come l'intensificarsi della violenza e di molti fenomeni strutturali sia stata evidenziata proprio da un contesto pandemico, per cui la sanità, il lavoro, la violenza ecologica sono tutti temi che ancora di più quest'anno meritano uno sciopero, necessitano uno sciopero. Lo sciopero è essenziale, come è essenziale la nostra lotta. Ovviamente poi c'è un piano di responsabilità collettiva che elide il mero piano giuridico imposto dai DPCM. La nostra volontà è sia per questo 28, questa domenica che saremo in piazza con B-Side, per un evento di avvicinamento che lancia lo sciopero, sullo sciopero dei generi e gli spazi transfemministi, sia per l'8 marzo. Il ragionamento è: noi vogliamo esserci coi corpi, sentiamo la necessità di riprenderci gli spazi, ovviamente valuteremo rispetto alla cura e alla responsabilità collettiva se sarà fattibile o meno. La nostra idea era di fare una piazza pomeridiana lontana dal centro, perché ovviamente c'è l'ordinanza e in centro non si può, quindi pensavamo a Piazza dell'Unità e fare delle lezioni in piazza la mattina con azioni. Se questo non potrà essere fatto per motivi di diciamo un'improvvisa impennata dei casi, e quindi al di là della restrizione che sarà in vigore da domenica della zona arancio scuro, se proprio ci dovesse essere un ulteriore divieto proprio alle manifestazioni anche statiche di qualsiasi tipo, ci organizzeremo in altri modi, sicuramente per esserci comunque in presenza come abbiamo fatto anche l'anno scorso. Però quello che noi vorremmo è esserci in piazza tutto e tutto insieme.